Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Sound bursts through. Ero in tram, linea 5 di Milano. Mi stavo recando come ogni giorno alla pista di atletica per i miei allenamenti. Quando ad un tratto il mio lettore MP3 dà i numeri. Spariscono tutte le tracce. Ed ora che faccio? Mi chiedo. Mi converto alla radio? L'idea di cambiare ogni 3 secondi frequenza, perché c'è solo pubblicità o musica banale o DJ che non mi sanno coinvolgere, non mi alletta molto. Però decido di tentare. Dopo qualche minuto di inutile zapping mi imbatto in un pezzo degli Yes. Non lo dimenticherò mai, era And You and I. E mi dico, gli Yes alla radio. Impossibile, forse il mio lettore MP3 ha ritrovato i brani cancellati. E invece no, ero sui 100 e 700. Continuo l'ascolto ed era un Trist Dassi, favoloso. Poi devo spegnere perché arrivo alla pista di atletica, ma intanto avevo memorizzato la frequenza. 100.700, Rock FM. Al termine dell'allenamento riaccendo il lettore MP3, sono quasi le 19 di una serata umida, con quella pioggerellina sottile classica dell'inverno milanese. E comincia una sigla con delle voci di bambini che ripetono più volte e con toni differenti la parola eclettica. Sono dolcissimi, dico. Però che roba è questa? Mi chiedo incuriosito. Bene, ma il titolo fu più appropriato per una trasmissione. Veramente eclettica. Incipit. Musica mai sentita e mai sentita in radio naturalmente. Una voce, la tua Giulio, che mi dava strane sensazioni. Un misto tra tristezza, felicità, concentrazione, spensieratezza, tutto in una sola ora, in una sola trasmissione. Da allora è stato sempre And You and I. Da 2 anni la mia radio non conosce che questa frequenza. È vero, sono un ascoltatore dell'ultima ora, diciamo così, ma vivo a Milano solo da 2 anni. Mi sono trasferito per lavoro e per seguire il mio allenatore da un piccolo paesino della provincia di Benevento, si chiama Pollosa. Molto eclettico, direi. E da quel pomeriggio siete stati la colonna sonora della mia nuova vita. Mi avete accompagnato sempre, ed ora perdervi mi fa star male. Di parole tristi e di pensieri d'affetto si sta facendo abuso in questo periodo, a giusta ragione aggiungo. Ma la cosa che nessuno mai ci potrà togliere di Rock FM sono i ricordi che ognuno di noi ha legati a questa emittente, alla vostra musica, alle vostre voci, al vostro modo di essere così eclettici. Grazie di tutto, e sono sicuro di risentirvi ancora, nei miei ricordi, o su qualche altra frequenza. Con affetto, per te Giulio, e per tutta la famiglia di Rock FM. Questo è uno degli ultimissimi messaggi che ho ricevuto, e mi ha fatto tanto piacere come tutti i messaggi che sto ricevendo a giulio@rockfamily.it. Vi ricordo, utilizzate d'ora in poi questo indirizzo, che vengono scritti sul forum, sul blog o sulla chat quando ci faccio un salto di quel sito che è diventata la casa di tutta la famiglia del rock. Eclettica che è cominciata con la sua seconda parte di questo lunedì, che la vede per l'ultima volta fra le 19 e le 20. Vi ricordo, la prossima settimana sarà fra le 20 e le 21, fra il lunedì e il giovedì, è l'ultima settimana, quindi ci sono un po' di variazioni nel palinsesto. Seconda parte che si è aperta con Mr. Gnome, che vi ho fatto conoscere la settimana scorsa con Night of the Crickets, che prosegue con un interessante gruppo che arriva dal New Hampshire, che è uscito qualche mese fa con un EP che mi ero perso al momento dell'uscita, ma che poi per fortuna ho incontrato. Si chiamano Wild Light e questa è New Year's Eve. Along with this, dances in rise and fall. You can never keep that beat at all. You can't even get up like before. You keep sleeping in the bed where you were born. Thank you. Stiamo girando il mondo in eclettica. Abbiamo prima toccato il Canada con i Silver Mount Zion Memorial Orchestra in Tralala Band, Blackwater's Blow del titolo del brano, per poi essere passati da Berlino, appena passati da Berlino, con I Sold My Hands for Food So Please Feed Me, che si è appena chiusa da parte dei Get Well Soon. Ci spostiamo invece negli Stati Uniti, The Music Tapes, e questa la novità che sto per trasmettervi, un brano intitolato Majesty da un album che è in uscita, che ha per titolo Second Imaginary Symphony for Cloud Making. Mio fratello era appena stato nominato segretario del territorio del Nevada, una carica tanto superba da concentrare in sé gli alti uffici di tesoriere, ispettore generale, segretario di Stato e, in assenza del governatore, sostituto del medesimo. Lo stipendio di $1,800 all'anno e il titolo di signor segretario conferivano a quel solenne mandato un'aura di inaudita magnificenza. Io ero giovane e ignorante e lo invidiavo. Ciò che suscitava la mia bramosia non era tanto la sua posizione e la sua opulenza, quanto il lungo viaggio nell'ignoto che lo aspettava e il mondo fantastico che si aggingeva ad esplorare. Avrebbe fatto un viaggio. Per me, che non mi ero mai allontanato da casa, la parola viaggio era quanto di più allettante si potesse immaginare. Questo era l'incipit di In cerca di guai, di Mark Twain. Outside in a new raincoat. Eclettica, ultima stagione, penultima settimana, volume numero 1, indice, After Hours, El Perro del Mar, Julie's Haircut, Miles Benjamin Anthony Robinson, The Black Angels, Mr. Gnome, Wild Light, Silver Mount Zion Memorial Orchestra and Tralala Band, Get Well Soon, The Music Tapes, The Blacks. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.